TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Muggia una donna di origini ucraine ieri sera ha ucciso il figlio di 9 anni tagliandogli la gola con un coltello da cucina, poi si è ferita ma è già stata dimessa, ora si trova in questura. Muggesani sotto shock per l'accaduto, i genitori del bambino erano separati e la madre era seguita dai servizi di salute mentale e dai servizi sociali. È prevista domattina in carcere a Udine l'udienza di convalida del fermo di Luca Levakovic, 42 anni, indagato per tentato omicidio nell'ambito dell'inchiesta sulla sparatoria di martedì sera. I temi della sanità e del lavoro al centro del Question Time in Consiglio regionale. Nel pomeriggio è prevista invece l'approvazione della nuova legge sul commercio. Oggi a Udine la Fiera del Lavoro, la più grande manifestazione del suo genere a Nord-Est. I colloqui con le aziende sono previsti sabato, migliaia i curricula inviati. Al via nel capoluogo friulano anche la 4 giorni del Fake News Festival per imparare a smascherare la disinformazione e promuovere il pensiero critico. Basket, Trieste in A1 e Cividale in A2 vincono in casa. La prima ha battuto Tortona per 91-81, mentre i friulani hanno superato 100-74-68. Le 12:31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In apertura una storia bruttissima. Come avete sentito, una donna di origini ucraine ha ucciso il figlio di 9 anni. È successo ieri sera a Muggia, il paese del padre del bambino. Ci aggiorna in diretta Sebastiano Franco. Buongiorno Alessandra. Ci troviamo nella piazza, in piazza Marconi, dove c'è il municipio, il Duomo, e dove si trova il numero 3, la palazzina, al terzo piano, teatro della tragedia di ieri sera verso le 21, quando la donna ucraina di 55 anni ha ucciso il figlio. Il padre, i genitori erano separati, il padre a cui era affidato il figlio, non riuscendo a mettersi in contatto con loro, aveva allertato le forze dell'ordine, la polizia del commissariato di Muggia. Hanno fatto irruzione grazie all'ingresso, all'entrata dalla finestra del terzo piano da parte dei pompieri, che hanno aperto la porta, e poi all'ingresso nel bagno la scena agghiacciante con il bimbo di 9 anni riverso a terra già morto, con la donna con un coltello vicino a lei in stato di shock, con alcune ferite. La donna è in stato di fermo, il padre ha passato la notte in ospedale, è ritornato a casa. Il padre è proprio sabato ha partecipato alla messa cittadina con il figlio, che si stava preparando per la comunione, una comunione che il figlio non potrà mai fare. Il padre, hanno detto tutti qui a Muggia, legatissimo al figlio, davvero una tragedia, e per questo pochi minuti fa c'è stato il minuto di raccoglimento nel giorno in cui è stato proclamato il lutto cittadino da parte del sindaco Polidori. È tutto da Muggia, a te. Ringraziamo Sebastiano Franco per averci aggiornato in diretta. I muggesani, come è ovvio, sono sconvolti da quanto accaduto e le domande su come sia potuto accadere si moltiplicano. Hanno fatto irruzione nella notte, entrando dalla finestra dell'ultimo piano della palazzina nel cuore di Muggia. Poliziotti e vigili del fuoco che si sono trovati davanti la più brutta delle tragedie. Un bambino di 9 anni, esanime a terra, colpito a morte alla gola dalla propria mamma, che poi ha rivolto il coltello contro di sé e si è tagliati i polsi. È successo alle 10 di sera, quando il papà del piccolo Giovanni, un uomo di 58 anni di Muggia, che aveva in custodia il figlio, tentava inutilmente di mettersi in contatto con l'ex compagna Olena Stasiuk, ucraina, residente in Italia da anni, che aveva il figlio per alcune ore. È stato lui sotto la porta di casa a chiamare il commissariato di polizia, intuendo che qualcosa non andava, infatti la tragedia. Sconvolto il parroco Don Andrea, che seguiva il bimbo nel catechismo. Beh, chiamare la famiglia è un po' azzardato, ecco, no? C'è sicuramente dei legami, però da tanto tempo deteriorati e segnati da una profonda fragilità. Chi si occupava di questo bambino soprattutto? Beh, il papà. Io lo vedevo sempre con il papà. La donna, ricoverata nella notte per le lesioni che si è autoinflitta, è stata dimessa in stato di fermo. La famiglia era seguita dai servizi sociali, dal tribunale. La donna anche già seguita dal CSM. A Muggia è lutto cittadino. Il sindaco Paolo Polidori. Era seguita dal comune già dalla nascita del bambino, e per cui, ma non in situazioni drammatiche. C'è una situazione difficile ovviamente, per quanto riguarda la separazione, ma nulla di drammatico, ecco, quindi è un percorso guidato, se vogliamo, anche con l'ausilio del tribunale, ma ovviamente dove gli assistenti sociali che ho sentito stamattina erano assolutamente sconvolti, perché una cosa del genere non se l'aspettavano proprio. Muggia, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora la sparatoria di martedì sera a Udine è attesa per domani mattina in carcere in via Spalato, l'udienza di convalida del fermo di Luca Levakovic, l'uomo di 42 anni che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio plurimo. Quattro i feriti finiti all'ospedale. È fissata per domani mattina nel carcere di Udine l'udienza di convalida del fermo di Luca Levakovic, indagato nell'ambito dell'inchiesta per tentato omicidio plurimo della procura di Udine, sulla sparatoria avvenuta davanti alle case Ater di Via della Roggia martedì sera. Lo ha riferito la sua legale, Raffaella Liguori, che in giornata lo incontrerà nella struttura detentiva di Via Spalato. Intanto sono in miglioramento le condizioni dei quattro feriti all'ospedale di Udine. Due di loro sono stati ricoverati in terapia intensiva, il più grave ha ricevuto un colpo di pistola all'addome, ma anche lui appare fuori pericolo di vita. Sono ancora in corso le indagini della Polizia di Stato guidate dalla Procura per individuare le responsabilità individuali di quella che a tutti gli effetti sembra una faida tra due famiglie rom storicamente presenti a nord-est, di Hudorovic e Levakovic. Nel frattempo la vita è tornata alla sua normalità tra i palazzi di Via della Roggia dopo i rilievi eseguiti dalla scientifica nelle ore successive al fatto. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca questa mattina intorno alle 4 a San Giovanni al Natisone in via Nazionale, un'auto guidata da un 24enne di Manzano è uscita di strada in modo autonomo. L'incidente ha causato varie fratture e contusioni al giovane, che è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine in aggiunta ai carabinieri e al personale sanitario. La pagina del tempo, il cielo è sereno su montagna e pianura, nuvoloso sulla costa, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 15 gradi, Udine, Pordenone 13,5, Gorizia 12,5, Forni di Sopra 10, Tolmezzo e Piancavallo 9, Sappada 8, Tarvisio 7, Monte Lussari 13, Monte Zoncolan 12, Grado 12, Lignano 10,5. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi pomeriggio e in serata in pianura e sulla costa, cielo in prevalenza variabile con maggiore nuvolosità ad est, nella zona montana cielo in genere poco nuvoloso, in pianura sulla costa e sul carso possibili foschie o locali nebbie, specie nelle ore notturne. È prevista nel pomeriggio l'approvazione in Consiglio regionale della legge sul commercio. Questa mattina era previsto il question time con al centro soprattutto i temi della sanità e del lavoro. In attesa della definitiva approvazione del nuovo codice regionale sul commercio e turismo, la cui discussione riprenderà più tardi, il Consiglio regionale ha dedicato la parte mattutina della seduta al question time. Diversi gli argomenti su cui i consiglieri hanno chiesto risposte alla Giunta, con attenzione particolare al tema della sanità. Dal Partito Democratico, Francesco Russo ha sollevato il tema della ristrutturazione dell'ospedale di Cattinara a Trieste, i cui lavori procedono a rilento, mentre attualmente la struttura è gravata da carenze che colpiscono i pazienti e rendono un polo, con punte di eccellenza, sempre meno attivo per i professionisti. Nella sua risposta l'assessore alla salute Riccardi ha ricordato le difficoltà esogene che coinvolgono l'impresa affidataria dei lavori Rizzani De Ecker, in crisi di liquidità e oggetto di una procedura di composizione negoziale. Procedura a cui è subordinata la ripresa a pieno ritmo dei lavori e che molto probabilmente, secondo Riccardi, prevederà un intervento pubblico, con la regione che in quella circostanza pretenderà la messa in sicurezza della commessa. Siamo impegnati a garantire il servizio e la sicurezza di tutti gli utenti dell'ospedale, ha detto Riccardi, pur sapendo che il sentiero è molto stretto. Simona Liguori, del Patto per l'Autonomia, ha invece chiesto chiarimenti sui numeri delle dimissioni volontarie del personale sanitario in Friuli Venezia Giulia, invitando la Giunta a introdurre degli strumenti di audit sulla qualità del lavoro per misurare la soddisfazione del personale che lavora nel sistema sanitario regionale. Le dimissioni volontarie, ha risposto Riccardi, nel 2024 sono state 314, in calo di una trentina di unità rispetto all'anno precedente, quasi la metà delle quali, 136, nell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Quello che preoccupa, secondo l'assessore, non sono tuttavia le scelte dei medici, quanto le dimissioni degli infermieri, la vera parte critica del sistema. Le risorse stanziate dalla Giunta negli ultimi anni e che hanno permesso di aumentare gli stipendi del personale, ha aggiunto, stanno avendo un impatto positivo, anche se la parte economica non è l'unico fronte su cui agire, e la Giunta sta lavorando a ulteriori strumenti. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Il ricambio generazionale dovuto ai pensionamenti e alla crescita economica sono le ragioni alla base della domanda di oltre 61.000 lavoratori in Friuli Venezia Giulia, pubblica amministrazione esclusa, nel quinquennio 2025-2029. Il ricambio generazionale per pensionamenti farà la parte del leone con l'80% della domanda, mentre il restante 20%, secondo le previsioni, sarà da ricondurre alla crescita economica. Una richiesta che, secondo le previsioni Unioncamere Excelsior, sarà soddisfatta nel 25% dei casi da persone straniere, con 15.000 nuovi occupati da oltrefrontiera. Dati che sottolineano la crescita del ricorso a persone non italiane per far fronte alla richiesta occupazionale. Al momento, infatti, i lavoratori stranieri in regione rappresentano l'11% del totale, a fronte di 58.000 unità. Del resto, il contributo degli stranieri al prodotto interno lordo regionale già oggi è pari al 10,8% del totale, vale 4,5 miliardi di euro. Significativo anche l'apporto sul territorio dei contribuenti nati all'estero, inclusi i naturalizzati italiani, che oggi sono 153.000, cioè il 16% del totale, che nel 2024 hanno generato un gettito di 409 milioni di IRPEF. Cifre contenute nel 15° rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione da stranieri a nuovi italiani, come cambia l'immigrazione della Fondazione Moressa, poi analizzati dall'Ufficio Studi di Confindustria Udine. Per supportare le imprese nella gestione della mobilità internazionale del personale, Confindustria Udine ha creato un nuovo servizio a sportello in grado di fornire consulenza anche per lavoratori da paesi extraeuropei. Tra gli obiettivi dell'iniziativa anche l'incentivazione dell'immigrazione di ritorno di italiani residenti all'estero. È la più grande manifestazione del suo genere a nord-est, la Fiera del Lavoro di Udine, che prende il via oggi, anche se l'appuntamento centrale con i colloqui effettuati dalle aziende in presenza si terranno nella sola giornata di sabato. Migliaia anche quest'anno i partecipanti che hanno già presentato i loro curricula. Portare in regione dall'Italia e dall'estero studenti e giovani lavoratori qualificati è l'obiettivo della Fiera del Lavoro di Udine, che cambia formula, si spalma su 3 giornate da oggi a sabato 15 novembre e prende il nome di Edu Job Fairs, 3 fiere per connettere talento e opportunità. La giornata odierna e quella di domani sono dedicate a colloqui online. La terza, in presenza, si tiene al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con incontri diretti tra studenti, laureati, imprese e i servizi per il lavoro regionali. Diverse migliaia i candidati che hanno già inviato i loro curricula e che si sottoporranno ai colloqui con 75 diverse aziende nazionali e internazionali in cerca di addetti. Non solo imprese e lavoro, però, da quest'anno protagonista della fiera sarà l'intero sistema educativo regionale della formazione terziaria, con le 2 università di Udine e di Trieste e i 4 ITS. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Al via nel capoluogo friulano la 4 giorni del Fake News Festival per imparare a riconoscere e smascherare la disinformazione. Balle, bufale, fanfaluche, oggi si dice fake news. Riconoscerle e distinguerle dalle informazioni autentiche e verificate è sempre più difficile e per questo fondamentale in una società che voglia dirsi sana. A Udine da oggi c'è il Fake News Fest, 4ª edizione. L'ideatore e curatore della manifestazione, Gabriele Franco. Sarà un festival importante, sarà un festival che segna una crescita di questa manifestazione, perché cresce il fenomeno delle fake news e quindi occorre affrontare nuove modalità di disinnescamento di questa tipologia di problema. E quindi abbiamo costruito un festival che si sviluppa sempre su 4 giornate, partirà oggi e fino a domenica, nel quale affronteremo tanti temi da tante prospettive. Il filo conduttore è quello del pensiero critico, cercheremo cioè di dare al pubblico competenze e strumenti per informarsi e per interpretare con la lente appunto del pensiero critico l'attualità. Si scrive fake news, spesso però si legge propaganda, sempre più strumento di guerra ibrida. Ne abbiamo avuto evidenza negli ultimi anni attraverso i conflitti che ancora ci occupano a livello internazionale. Pensiamo ad esempio al conflitto fra Russia e Ucraina, dove notizie appunto false sono state all'ordine del giorno, e dall'inizio del conflitto sono oltre 300 notizie false diffuse su oltre 500 siti. Dati analoghi in proporzione sono anche riconoscibili nel conflitto ancora in corso fra Israele e Palestina. Questo viene anche ad esplicarsi non soltanto nella fase belligerante, ma anche da un punto di vista elettorale. Le elezioni possono sempre più essere influenzate anche dal fenomeno disinformativo. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport con il basket. Ieri sera Trieste ha giocato in casa e ha vinto. La cronaca della partita. Quando piovono i fischi dopo 10 minuti di gioco, conclusi sotto le 18, 11-29, giocando malissimo in attacco e peggio in difesa, la Pallacanestro Trieste si sveglia e rimonta vincendo contro Ondertona, che al contrario perde fiducia al tiro e si spegne progressivamente. I biancorossi, che con l'ennesimo quintetto made in USA, nonostante l'assenza di Toscano Henderson, incassa più colpi che Willy il Coyote con gli ospiti che sembrano bip bip, trovano la scossa per reagire dal nucleo italiano. Ruzziere Moretti, capace di mettersi in proprio quando l'attacco stagna, ma anche De Angeli e Candussi, che non li vedi, ma che entrano sul meno 18 ed escono a sbrego rammendato. Nella ripresa, nonostante Tortona continui a volare in contropiede sulle perse di Ross e Company, gli ospiti non segnano più da fuori, mentre Ruzier continua a martellare con le due bombe che valgono il 69-66. La squadra di Gonzales, complici i problemi di falli degli avversari, non si fa più riprendere perché il contributo degli americani finalmente arriva. Yutov con le piccole cose, Ramsey e Brown come stoccatori finali. A chiuderla sono le due guardie americane con un canestro in acrobazia che dimostra ancora una volta le abilità fuori dal comune in attacco del primo e una tripla del secondo, 91-81, quarta vittoria in campionato della stagione e positività in vista del miniciclo terribile nei prossimi 10 giorni, dove dopo le trasferte di Cremona e Istanbul arriverà l'Olimpia Milano. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora basket in Serie A2, ieri ha vinto in casa anche Cividale. Nel basket moderno bastano pochi minuti per ribaltare grandi svantaggi, figuriamoci quelli più piccoli. Cividale, dopo un primo tempo da incubo e percentuali da oratorio, 2 su 20 da 3 punti, infila 4 bombe consecutive e la partita svolta. Contro 100, piacevole sorpresa del torneo, sembra andare tutto a rotoli. Al di là della mira dalla distanza, a mancare sembra essere l'energia, con Davis che, come da tradizione, al Palagio Steco fa vedere tutto il suo repertorio, 27-40 a metà, con un Ferrari distratto e un Freeman poco coinvolto. Nella ripresa, con la difesa più concentrata e con 4 punti di Umberti particolarmente presente, i Ducali si sono rifatti sotto prima del pirotecnico quarto finale. Dal 49-54 firmato dal solito Davis, i gialloblu trovano l'ispirazione di colpo. In un minuto Mastellari, Rota e ancora Mastellari danno la spallata con 9 punti in 3 azioni consecutive, dando là allo strappo decisivo. Con gli emiliani che devono concentrarsi anche sugli altri, Redivo, Freeman e Ferrari hanno più spazio e Cividale va a più 10. Come spesso succede però, stacca le mani dal manubrio troppo presto. Meno male che dopo i consueti pasticci, Divo sbaglia il tiro del meno 2 e l'argentino dalla lunetta è invece infallibile. 74-68 con 27 punti nell'ultimo quarto e Redivo, miglior marcatore, a quota 22. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Proseguiamo con le altre notizie del nostro giornale radio. Darà informazioni sui più comuni fattori di rischio per la salute, sui metodi di prevenzione e diagnosi a tutela del nostro benessere, l'incontro intitolato Prevenzione del cancro colorettale, organizzato dall'Associazione Friulana Donatori di Sangue. Appuntamento Moimacco alla Pinacoteca Tavagnacco in via Chiarandis alle 20:30. E affronta il mondo femminile con un taglio ironico lo spettacolo Seniloquio, scritto, diretto e interpretato dalla pluripremiata Virginia Risso. Spunto dell'azione e delle indagini scientifiche sul seno. Appuntamento a Pordenone al Teatro Capitol alle 20:45 per il cartellone della rassegna La scena delle donne. E in occasione del 40° di fondazione della Consulta regionale delle persone con disabilità e le loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, il coro dei Free Voices si esibirà diretto da Manuela Marussi. In programma un excursus del repertorio dei Free Voices animato dalle coreografie di Marco Rigamonti. A Gorizia, all'Unione Ginnastica Goriziana, alle 20:30. Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio regionale del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Alessandra Zigania e Maria Spezia. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Pasquale Nocere e Mauro Ciccarelli. Prossimo appuntamento con l'informazione regionale, l'edizione pomeridiana delle 15. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.